Gianluca Garetti, vicepresidente di Medicina Democratica, medico psicoterapeuta, che recentemente ha scritto un articolo su quelle che ritiene le cause, o almeno parte delle cause, di questa emergenza, di questa epidemia, di questa pandemia. Intanto, se ci puoi esporre, secondo te, da dove arriva questo virus, quindi principalmente se ci spieghi bene la questione del salto di specie, e anche della correlazione appunto con quello che te individui come uno dei fattori, cioè l'inquinamento. Sì, grazie. Sì, il tema è che diciamo, questo virus sembra, no, che nasca in quel mercato cinese di Wuhan, quel mercato dove ci sono animali selvatici che vengono venduti, sembra perché la popolazione cinese si è messa abbastanza alle corde perché tutto Non ti sento più, sai. Mi senti? Ora ti sento, sì. Forse bisogna. Mi riprendo dalle cose cinesi. Sì. No, questo mercatino cinese dove c'è tutta questa roba, un mercato umido, no? Perché ci sono degli animali, c'è un gran porcaio, e sarebbe partito questo virus nel genoma ha un 80% diciamo, di sequenza dei pipistrelli, per cui sembrerebbe che questo virus sia proprio partito di lì. Si è partito di lì, però a noi sembra sia arrivato dalla Germania. No? Comunque la partenza è questo virus. Questo virus che era un virus che gli esperti aspettavano da diversi anni, questa paura di una pandemia. E questo virus è un virus a RNA che ha la caratteristica che si replica molto velocemente. E anche la caratteristica appunto si diffonde con questa latenza di 14 giorni. Un'altra caratteristica è quella dei portatori sani, che viene diffuso dai portatori sani, e questi cinesi non l'avevano detto, probabilmente questo età il discorso ci ha messo in ginocchio, perché questi portatori sani si sono diffusi nel territorio e sono andati, quindi hanno infettato un mare di gente. E fra le cause diciamo, di questa infezione, specialmente quello che ci si chiede, come mai in Lombardia c'è questa grossa percentuale diciamo, di malati, di morti purtroppo, come mai proprio lì? Allora una cosa è venuta così balzata alla mente, cioè, ma in Cina e Lombardia sono le zone del pianeta, per cui dici, ma allora lo smog ci può entrare. Ecco, lo smog casomai entra come un po' fattore nella diffusione del virus, no? Cioè che facilita la diffusione del virus, cioè una sinergia del virus, che il virus ha di per sé una sua cattiveria, diciamo, che è quella che è pericolosa. Poi c'è lo smog che lo veicola e lo sinergite, perché in realtà il particolato ultrasottile ha un meccanismo di azione che ricorda anche il virus, no? Perché il particolato si entra in via respiratoria e va a finire, cioè quello sottile PM2,5, no? Va a finire negli Certo. alvei del polmone e lì crea il problema. Tu Lo stesso parli fa di una questo. tempesta di citochine. Sì, la tempesta di citochine è il tema di questa. Di questa epidemia, perché cioè è un virus nuovo questo, per cui il nostro organismo no, non lo conosce. Allora il nostro meccanismo immunitario reagisce, iperreagisce, fa un fuoco amico eccessivo e quindi questo fuoco amico va a distruggere anche le cellule sane del polmone. Quindi crea questo grosso polmonite interstiziale, si chiamano, che in pochi giorni il polmone va in fibrosi, cioè diventa duro, quindi non respira più e si muore. Quindi è una cosa abbastanza complicata, questa tempesta di citochine. Ecco, te all'inizio dell'articolo, fra l'altro, citi delle statistiche che fanno notare che l'inquinamento è uno dei fattori più pericolosi per, quantomeno per il genere umano. Citi gli 8 milioni di morti nel mondo, in Cina sono oltre 1 milione, poi citi appunto le malattie infettive hanno una mortalità sulla popolazione mondiale di circa il 9%. Se non mi sbaglio. Sì. quindi anzi pesano poco rispetto a, cioè, a livello diciamo di noi, del mondo occidentale, no? Che fino ad ora se noi ci guardavano, come dice Ascanio Celestino, no? Era una cosa che riguardava gli altri, gli scalzi e nudi, quelli l'altrove, e noi si stava qui belli a guardare, se quelli muoiono, ma noi muoiono di diarrea, no? di queste infezioni, sempre. Ma noi la pasticca si va alla farmacia, si prende, queste malattie si superano. Questa volta ci è arrivato, sanno questo virus infettivo, ecco, questa emergenza di nuovi virus infettivi che hanno fatto il salto di specie, quelli della SARS, della MERS, e poi ora questo qui, che sono piuttosto pericolosi, ecco. Ecco. Allora, io volevo chiederti inoltre, voglio dire, tu citi le aree più inquinate del mondo, come la Cina, come la pianura padana, però ad esempio a me balza anche all'occhio che sono anche le aree più densamente popolate Certo, e quindi sì. magari dove una diffusione è più ampia. A cosa dobbiamo dare più peso? O almeno dove inizia questo ciclo? Perché sono tutte correlate, le aree più dense sono quelle più ricche di industrie, sono quelle più popolose, sono quelle più inquinate. Quindi, dov'è il capo di questa fune? Io non c'è un capo solo, ci sono tanti capi, tanti nodi che svengano al pettine, cioè in tante relazioni. Perché parlando con un amico, lui mi faceva notare, dice, guarda, però c'è le isole Faroe, come si chiamano quelle isole laggiù Sì, in Islanda, farò. lontane, lontane, in quelle isole c'è anche lì una progressione molto veloce del virus, e lì non c'è tanto inquinamento rispetto, no? Per cui cioè, l'inquinamento può essere, è un'ipotesi, sia uno dei fattori, ma il fattore principale è la virulenza del virus, ecco. Ecco. Poi tra l'altro se citi anche un'infezione batterica oltre a quella virale. Sì, cioè il discorso batterico sarebbe le tre pandemie del secolo scorso, come si chiama, la spagnola, La spagnola. l'asiatica, la Hong Kong. Anche questi sono virali, sono venuti dagli uccelli, sono aviari, e di questi si moriva perché c'era una superinfezione batterica, ecco. C'era a un certo punto una polmonite batterica, e quindi per esempio nella spagnola non c'erano antibiotici a quel tempo, quindi la gente poi era defedata dalla guerra e quindi morivano così. Ora, diciamo, il discorso degli antibiotici rientra, pur il virus dell'antibiotico non c'entra nulla, l'antibiotico del virus, però quando si arriva a avere una polmonite in questo caso, allora viene usato anche l'antibiotico, l'87% delle persone del Covid usano, cioè non usano, però, cioè loro gli viene data quando sono intubati ancora Assumono così, antibiotici, sì, assumono. involontariamente assumono antibiotici per. Per cercare di frenare un po' questa tempesta di citochine, ma insomma, che può creare anche delle superinfezioni batteriche, ma insomma è un problematico. E questo discorso degli antibiotici si collega con un'altra pandemia in corso che si può annodare con queste qui, che è quella della antibiotico resistenza, no? Che anche questa è collegata in parte con il mondo animale. Questo è un altro versante degli allevamenti. Prima si è parlato della fauna selvatica che si è avvicinata troppo a noi, ora c'è anche gli allevamenti che sono una bomba esplosiva per il pianeta, che possono causare anche questa antibiotico-resistenza, perché agli animali viene dato dosi massicce di antibiotici. Si calcola che in Italia, per esempio, il 70% degli antibiotici usati siano dati negli allevamenti. In America si dice 2 o 3 volte vengono dati gli allevamenti rispetto all'uso umano, gli antibiotici, per cui alla fine chi mangia carne si trova a mangiare anche antibiotici a basso dosaggio. È proprio questo basso dosaggio che poi alla fine crea le antibiotiche resistenti, per cui alla fine quando ne hai bisogno vai in ospedale, c'è una cosa grave, ti trovi quelli che si chiamano superbugs, questi superbatteri che se ne fregano degli antibiotici e sono cose gravi, insomma. Certo. Senti, ora poi appunto stiamo parlando di un argomento che è veramente vastissimo e abbraccia tanti Sì, campi, dall'economia enorme. alla salute, alla sanità, al concetto di Sì, mille. istituzione e via discorrendo. Però io la cosa che vorrei chiedere un po', visto che Tutti questi temi rientrano anche in questa campagna che è salita alla ribalta nell'arco degli ultimi 2 anni, in particolare grazie a Greta Thunberg e Fridays for Future, quindi nell'ottica poi di ciò che ci siamo ritrovati con un'epidemia, secondo te il percorso intrapreso da questi gruppi di persone, che si può dire globale, è servito a qualcosa? Ha fatto fare dei passi avanti? Sarebbe stato peggio, ad esempio, se non vi fosse stata una coscientizzazione nel mondo della questione climatica, oppure è stato semplicemente ininfluente? No, sicuramente è importantissima questa presa di coscienza, perché una delle cause, diciamo, di questi vari nodi che stanno venendo al pettine è sicuramente, se non la causa principale, è l'antropocene, no? Cioè, quindi il nostro impatto pervasivo sul pianeta. Quindi sicuramente un altro è quello se, capitale oceano, cioè secondo me il capitale che ha creato questi problemi. Un altro lo chiamo il mix oceano, cioè l'insieme di tutti i cocktail, per esempio degli inquinamenti che ci abbiamo, perché alla fine creiamo una matassa con tanti nodi, alla fine questi nodi, ora viene fuori un nodo, viene fuori un altro, insomma, quindi le problematiche sono enormi, insomma. E tutte connesse in un mondo globalizzato, mi Sì, è un permetterei di mondo aggiungere. globalizzato, un po' tutto connesso, ogni tanto viene un nodo e ora siamo in un nodo grosso, insomma, e si spera che questo nodo si sciolga, ecco. Ma Ma c'ha mille cause, ecco. ecco, ma e quindi fra l'altro io un po' anche dall'articolo che tu hai scritto tenderei a dire che se noi non agiamo su tutte Certo. queste cause, seppur magari si riuscisse a risolvere questa emergenza, è molto probabile che ce ne troviamo un'altra fra pochi anni, visto anche Sì, che esatto. nell'ultimo decennio abbiamo visto un succedersi di epidemie più o meno virali, più o meno mortali e letali. Però, insomma, all'incirca ogni 2 anni fra Ebola, SARS e MERS. Certo. Sì, indubbiamente, cioè, se non ci sarà, come anch'io dico in questo articolo, un cambio di paradigma, le cose andranno sempre peggio, perché questa potrebbe essere una prova generale, se ci si leva le gambe. Bisogna cambiare radicalmente, no? Cioè, Qual è questa cosa secondo ci. te il cambio di paradigma da mettere in atto? Vabbè, ce n'è tanti. Vabbè, io lo chiamo ecosocialismo perché lì vedo una speranza, una prospettiva futura di superare quel capitalismo, il mondo del profitto. Lì ci sono tante cose. Da una sanità pubblica, per esempio, che si sta vedendo in questo momento l'importanza di avere una sanità pubblica, a un uso diverso del suolo, del consumo di suolo, per dire delle foreste, un'agroecologia che vada oltre il agrobusiness, a chiudere questi allevamenti intensivi, insomma, tutto il commercio di fauna selvatica, anche queste sono tutte cose che dobbiamo riuscire a superare, insomma. E poi, per non parlare poi dell'inquinamento, che insomma, quello mi sta a cuore particolarmente, ma che lì bisogna dargli un taglio, no? Non si può aspettare il Covid o l'acqua per non avere inquinamento, insomma, bisogna Bene. darsi da fare, insomma. Senti, guarda, l'hai citato te, io volevo farti una domanda proprio sul sistema sanitario nazionale, in particolare quello italiano, anche se poi Certo. da quello che si legge si può dedurre anche che laddove questo virus è più incisivo e si sta diffondendo di più sono quei paesi che sono tutti accomunati da grandissimi tagli in ambito sanitario. Però ecco, io vorrei un po' chiederti, anche in base a quello, alla tua esperienza e a quello che vedi che sta succedendo, come ti sembra che abbia reagito il sistema sanitario nazionale, quali sono le principali pecche, le principali mancanze e anche le misure da attuare nell'immediato, ma anche più a lungo termine per poter tornare ad avere un sistema sanitario decente. Certo, diciamo che il sistema in questi ultimi 10 anni è stato definanziarizzato, è stato privatizzato, è stato ridotto i posti letto, ridotto il personale specialmente negli ultimi 9 anni, no? Quindi ora ci siamo trovati abbastanza arresi. Quello che poi non è mai stato fatto è il territorio. Il territorio è stato lasciato a se stesso. Se sentite i politici dicono sempre che il territorio, potenziale il territorio, in realtà non è stato mai fatto. Ora, in questo specifico, è il territorio proprio, secondo me, il problema grosso, perché è successo che la gente è andata tutta all'ospedale, gli ospedali sono infettati, si sono infettati tanti medici, appunto stamani c'è stato un comunicato di Medicina Democratica in cui si diceva che sono morti 17 medici, l'8,3% dei contatti sono operatori sanitari, per cui ecco, questi operatori sanitari sono stati lasciati in prima linea e abbandonati a se stessi. E per un'epidemia questa è la cosa peggiore che si può fare, per cui bisogna creare, diciamo, anche ora dei corridoi sanitari in cui le persone possano accedere piuttosto che andare negli ospedali a intasare e a infettare tutto, no? Pensiamo anche ai medici cinesi, a Li Wenliang, mi pare si chiami, il primo che ha dato l'allarme, che poi insieme a altri 8 medici cinesi è stato messo dentro perché secondo loro dava informazioni inesatte e poi è morto poverino di coronavirus, no? Quindi sì, il servizio sanitario va completamente, va ripreso in mano, bisogna potenziarlo, deve essere nazionale. Perché io non so cosa succederà in America, per esempio, che lì se hai soldi ti curi, se non hai soldi muori. Allora, l'ultima domanda che ti vorrei fare, poi ti lascio, perché però è ancora un po' sulla questione, scusa un attimo. Oh, va, sì. Dai. L'ultima domanda che ti vorrei fare è un po' sulla questione, parte della tua professionalità, che è quella di fisioterapeuta, e quindi l'impatto che questi eventi hanno sia su una dimensione collettiva che invece su una dimensione, non direi prettamente singola, magari sì, su singola, ma anche in relazione alla stretta intimità delle persone, quindi all'interno del nucleo familiare, quindi che effetti hanno nell'immediato e anche poi magari più sul lungo termine. Insomma, il tema penso sia abbastanza complicato, perché questa situazione è arrivata, diciamo, nel bel mezzo del nostro tran-tran, nella nostra vita, molto spesso un po' automatica, no? Abitudinaria. Ci è piombata addosso questa cosa che ci mette di fronte a dei temi grossi che spesso non abbiamo il tempo di guardare, no? Il senso della vita, l'impermanenza di queste cose, perché si corre tutti qua di là, questo ci blocca, ci tiene fermi nelle case. E una delle cose più difficili, no? Che io mi interesso di meditazione, tengo gruppi di meditazione da tanti anni. Una delle cose Pascal diceva nel 1600, la cosa più difficile per l'uomo è restare da solo con se stesso in una stanza. E questa è una grossa sfida, perché si deve stare con la nostra mente che diciamo inquinata da tutte queste notizie negative che si sente alla televisione. La nostra mente di per sé in genere ci trasmette sempre roba, programmi piuttosto negativi, per cui siamo bombardati da due parti e non è facile liberarci, diciamo, da questo bombardamento sia mediatico ma sia anche mentale nostro, e riuscire a entrare dentro di noi e cercare di fare un po' di spazio, di vedere le cose come si dice, no? Fare un passo indietro, cercare di guardare le cose da un'altra prospettiva, non farci prendere dall'ansia, dall'angoscia, che non è facile, però ricondursi a se stessi, trovare dentro di sé qualcosa, una pace, eccetera, eccetera. Prima c'era la religione, ma non so, più ora è un po' in disuso, ma di tutto cercare dentro di noi questa zona di pace, questa serenità, che non è banale la cosa. E poi a livello sociale spero che queste balconate, queste cose così, poi ci sia un cambiamento verso la solidarietà, ma questo c'è abbastanza dubbi, perché Altre, già successo altre volte, poi ingettata questa solidarizzazione delle persone, ecco. Ma speriamo ci sia, insomma, ecco, come speriamo che questo virus, come cambia tanto, che cambi in bene, ora, sia sempre negativo, insomma, no? Che questo virus a un certo punto si attenua la virulenza, che fa parte, in genere i virus fanno questo, magari col caldo, un'altra roba, e ci lascia un po' di pace, insomma.